Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 9 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e come sempre vi ricordo nel corso della trasmissione del rotocalco domenicale di Radio 24 anche la possibilità di portarvi a casa qualcosa concreto, nel senso che non è solo legato all'ascolto, ma qualcosa di fisico, ovvero il catalogo della mostra di Miró e anche il biglietto d'ingresso della mostra, ammesso che riusciate a cogliere il nesso fra un'opera dell'artista e la canzone che vi faccio ascoltare. E la prima canzone che vi farò ascoltare sarà questa. Canzone che avete sicuramente riconosciuto, Antonello Venditti, ma ne parliamo più tardi, intorno alle 11.40 con Miró in 24 minuti, e dovete appunto associare questa canzone a una delle opere dell'artista e comunque vi aiuterò. La settimana scorsa hanno vinto tutti in pratica perché sono stati molto aiutati. Il numero verde per prenotarsi 800 24 00 24. Però entriamo nel vivo della puntata di oggi, è il giorno della memoria e noi non vogliamo parlare di quella memoria di cui appunto il giorno è questo, ma della memoria in generale, delle cose che non dobbiamo dimenticare, che assolutamente non dobbiamo perdere per quanto riguarda la letteratura, per quanto riguarda il teatro, il cinema, la televisione e anche le cose che ci appartengono, anche quelle personali, no? Proprio le cose, gli oggetti, sono gli oggetti che, dei quali noi non vorremmo mai dai quali non vorremmo mai separarci, perché fanno parte della nostra memoria storica, magari per altri non hanno nessun senso, ma per noi sì, e così tendiamo ad accumulare. Quindi parliamo anche di questo, dei famosi accumulatori, magari un pochino lo siamo tutti, no, per qualche verso, e quindi insomma cercheremo di parlare di memoria in questo senso. Voglio sapere anche da voi le cose dalle quali mai vi separereste e quali sono quelle che assolutamente volete tramandare ai vostri figli o le persone che verranno dopo di voi. Il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. E come sapete la puntata parte sempre con una canzone che dà l'inizio alle danze e io ho scelto questa bellissima canzone di Giorgia. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Il riposo del guerriero. Parliamo di memoria oggi, di quello che non dobbiamo dimenticare. Enrico Groppali, ciao, benvenuto, buona domenica. Benvenuto, grazie a voi. Allora, Enrico Groppali, autore, critico teatrale e tanto altro, e cominciamo a ricordare. Da dove vogliamo partire o da chi è meglio vogliamo partire? Beh, dato che la memoria naturalmente ci si rivolge alle vittime della Shoah, sì, direi perlomeno a due grandi figure che sono state effettivamente, purtroppo, due vittime della Shoah, anche se una non è morta in campo di concentramento, ma ha sperimentato anche sulla propria pelle la crudeltà del mondo in quegli anni terribili. Allora, cominciamo da quella che non ha avuto questo destino tremendo e che è stata la grande filosofa, non romanziera, e una grande testimone del suo tempo, della democrazia del suo tempo, come Simone Weil. Simone Weil, di famiglia ebrea, cosa fece? Si laureò in filosofia, aderì al marxismo. Il marxismo però le sembrò a un certo punto una cella troppo angusta e persino la degenerazione, prima leninista e poi stalinista, le sembrò una negazione della libertà assoluta dell'uomo. E quindi, nonostante fosse di famiglia agiata, decise di sperimentare dal vivo sulla propria pelle le condizioni tremende in cui versavano anche gli operai, la classe operaia di allora, e divenne manovale alla Renault, dove rimase per molto tempo, contrasse la tubercolosi, si spostò attraverso le vie del mondo, arrivò anche a Londra, polemizzò un po' con tutti e alla fine della sua breve vita si convertì anche al cattolicesimo, ma non fu una conversione di comodo, come naturalmente capitò a tanti intellettuali ebrei che volevano semplicemente sfuggire alla terribile morte, alla persecuzione dei nazisti. Lei abbracciò del cattolicesimo un ideale spirituale proprio più vasto, quello dei padri della Chiesa e quello di un connubio assoluto con gli evangelisti. E a lei si deve, tra l'altro, anche la riscrittura di una meravigliosa opera teatrale. Cioè, Venezia Salva, che è un titolo che forse alcuni di voi hanno sentito nominare, è una bellissima tragedia di Thomas Otway che risale a tanti, tanti secoli fa. Da noi, negli anni del Novecento, proprio la riscrisse il nostro Massimo Bontempelli. Beh, pochi sanno che invece Simone Weil, in questa congiura degli ideali traditi e in questa speranza di un futuro che sempre di più si allontana dalle radici ideali dell'uomo, si dedicò con particolare fervore e fu ricompensata molti anni dopo, perché intanto perché sia pure postuma c'è arrivata in un'edizione ad Elfi questo piccolo contributo alla drammaturgia contemporanea, ma Ronconi alcuni anni fa allo Stabile di Torino la mise in scena. Sì. Un'altra invece è una grande scrittrice, sì, che invece fu vittima in prima persona della Shoah. Morì ad Auschwitz il 17 agosto 1942. E che era Irene Nemirovsky, o Nemirovsky, che figlia del grande capitale ebraico, praticamente dalla Russia passò alla Francia, conosceva perfettamente quattro lingue, scrisse la sua opera più famosa, purtroppo lasciata incompiuta, Suite francese, che racconta il terribile esodo di tutti coloro che alla vigilia della Francia occupata dai nazifascisti cercarono di fuggire radunando le loro povere cose come se fosse veramente un esodo degli ebrei d'Egitto attraverso tutto il paese. Scrisse altri meravigliosi libri, passò la sua vita a scrivere e pensò di salvare se stessa, la propria famiglia, le proprie figlie, trasferendosi in campagna, molto lontano naturalmente dal centro nevralgico di Parigi. E ciò nonostante non riuscì ad evitare la deportazione, la morte ad Auschwitz, dove anche il marito, che pure aveva cercato in ogni modo, un ingegnere minerario, che poi era stato assunto dalla banca centrale, nel vano tentativo di liberare la moglie, cadde invece nelle reti della Gestapo e anche lui incontrò la morte orribile che ci possiamo immaginare. E oltre a tutto, per fortuna, molte sue opere furono salvate dalle figlie, soprattutto dalla figlia maggiore, che riuscirono a salvarsi attraverso la fortunata coincidenza di molti amici che si occuparono di loro, mentre la nonna materna, che diventata una feroce collaborazionista dal suo esilio dorato a Nizza, alle due nipotine che trovatesi improvvisamente senza padre e senza madre nelle difficili circostanze, per non dire tragiche, della Francia occupata, consegnò una misera somma e le disse di togliersi di torno, che non voleva assolutamente avere nessun rapporto con loro. Oggi la Nemirovsky, oltre a essere pubblicata da Adelphi, sì, ricordiamo che il Corriere della Sera praticamente ogni settimana edita uno dei suoi bellissimi libri, una volta alla settimana, che sono una testimonianza non solo di impegno civile, ma di impegno ideale. A partire dal primo romanzo che la Nemirovsky scrisse, che è un romanzo di sole 100 pagine, ma la qualità non si misura con la quantità, come voi sapete, che si intitola David Golder, parla di questo personaggio mitico di un finanziere giunto all'apice del successo e parla di tutto ciò, le crepe esistenziali e ideali che si aprono in un tycoon, oggi diremmo, no? Che aveva raggiunto proprio il massimo della notorietà, dell'efficienza, della popolarità e anche della facile aristocrazia del denaro, e tutto ciò che ha dovuto pagare in termini personali, non solo per la conquista di questo posto al sole, ma anche per essersi distaccato dal genere umano. Parlo di David Golder anche perché è proprio il romanzo che questa settimana trovate in edicola. Grazie. E grazie. Quindi potete cominciare la Nemirovsky a leggere, a conoscerla, questo, in questo modo. Grazie davvero Enrico, tu sei ospite qui oggi in studio con noi, quindi comunque ci sentiamo, nel senso tutta la puntata sarà con la tua voce. Intanto c'è anche Marta Cagnola qua al telefono invece. Ciao, buongiorno, Marta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Marta. Allora, invece volevo chiedere a te, visto che oggi parliamo comunque del ricordo, della memoria, di quello che secondo te, anche secondo gli ascoltatori, se vorranno scrivere un messaggio, non andrebbe mai dimenticato. I film da vedere, nel tuo caso, la televisione che non si deve perdere, che grazie a YouTube oggi e anche a qualche programma, insomma, che ricorda il TV del passato, possiamo rivedere e forse rigustare. Guarda, io sono, come sai, molto appassionata di storia della televisione. Sì. E cerco di recuperare il recuperabile, ho un grandissimo archivio a casa, perché io penso che la televisione sia lo specchio della società e che ci dica molto di quello che siamo e di quello che siamo stati. E siccome ricordare quello che siamo stati fa sempre bene, non solo il 27 gennaio, ma sempre, io certo. Mi diverto ad andare a recuperare il bello e il brutto che siamo stati. Questa mattina io sì. mi avete sorpreso mentre stavo facendo i mestieri da brava casalinga la domenica mattina, e cosa avevo nel lettore DVD? Una raccolta che in questo periodo sta uscendo, ne dico, la conosciamo, su Carosello. Sì. Ebbene, io mi diverto molto a riguardare questi programmi e soprattutto appunto i siparietti di Carosello, ma anche gli show i vecchi show del sabato sera, che appunto si trovano ormai con grande facilità su YouTube, perché raccontano moltissimo dell'Italia che siamo stati, gli italiani che eravamo e quelli che volevamo essere. A volte stupisce un po', a volte fa arrabbiare, a volte spesso fa molta tenerezza. Ecco, ricordo che i caroselli dovevano durare credo 3 minuti, e dei quali soltanto gli ultimi 30 secondi potevano essere dedicati al prodotto, gli altri 2 minuti e mezzo dovevano essere qualcosa di, tra virgolette, culturale, dovevano raccontare una storia o essere... E tra l'altro ricordava proprio Enrico Groppali, Enrico dimmi se sbaglio, che i caroselli di Barilla interpretati da Minna, che cantava una canzone, in realtà erano diretti da grandi registi. Ah certo, i fratelli Taviani, Zurlini eccetera, naturalmente non firmavano, perché allora non usava guai, la pubblicità cose. Era la pubblicità naturalmente non si doveva identificare con la cultura, ma noi vediamo anche questi splendidi programmi anche in pochi minuti. Sì. Dove intanto la meravigliosa angolazione delle riprese, com'era truccata, com'era vestita Mina, e soprattutto come si armonizzava la figura della cantante proprio con le architetture. Sì. In cui veniva collocata, e non solo le architetture studiate appositamente per, cioè me ne ricordo una bellissima, non so in quale canzone, di Mina proprio all'Euro. Ma ce n'erano anche, per esempio, anche non so, di Mina in esterni, ma anche in stranissimi interni, in interni esterni, quindi diventavano proprio dei mini spettacoli televisivi, oggi finalmente fortunatamente recuperati. E vabbè, la parola è abusata e può sembrare addirittura abusiva, però erano veramente dei caroselli d'arte. Sì. A parte però la voce meravigliosa della cantante e la sua personalità ineguagliabile. Beh, che comunque in generale nei caroselli c'erano grandi attori di teatro, sì. Parlo di teatro perché il cinema a quell'epoca arrivava dal teatro, per cui... No, le facevano non so Lina Volonghi, le facevano per esempio la deliziosa Lauretta Masiero, che in quegli anni furoreggiava con un serial, oggi diremmo, sì, a puntate, dove impersonava, era un giallo rosa molto carino intitolato Laura Storm, dove lei era la detective che scopriva dei casi incredibili, ma tutti però ambientati in Italia. Quindi c'era stato un omaggio, non un ricalco, diciamo, non dei programmi ma dei film anglo-americani dell'epoca. anche se erano molto diversi naturalmente dalla fisicità di Lauretta Masiero. Mi ricordo per esempio che in un certo senso tutto ciò che faceva una grande attrice come Margaret Rutherford, naturalmente pingue, voluminosa, eccetera, nei film che abbiamo visto tutti tratti dai romanzi di Agatha Christie, non so, Miss Marple in battello, Miss Marple in treno, assassino in treno, assassino al galoppatoio, assassino chissà dove, venivano ripresi, ma con, naturalmente non tratti da Agatha Christie, ma sì, su sceneggiature originali in queste cose. Ma erano dei caroselli, quindi, tutto questo raccontato in poco. Sì, raccontato. No. Laura Storm era un programma vero e proprio a puntate. Sì. Poi, invece, data la popolarità e la fama raggiunta, utilizzarono Lauretta Masiero anche per delle pubblicità dove lei appariva come Lauretta Masiero, ma come Laura Storm consigliava. Era diventata il personaggio di se stessa e quindi erano incantevoli queste cose. Oggi la pubblicità, vabbè, a parte degli ariosi paesaggi che quasi sempre sono confinati in una casa alto borghese dove arriva una meravigliosa colazione, quella del mattino, oppure un lauto pranzo, non andiamo al di là di quella a volte pacchiana rappresentazione del benessere con la B maiuscola, mentre allora ci si sbizzarriva con una dose sufficiente e anche non insufficiente, assai sufficiente di creatività. Allora Marta, allora credo che tu concordi con quello del che raccontava tutto. Dai caroselli di Mina, Laura Storm, che ho proprio riguardato qualche giorno fa perché appunto sono in fase di studio e ripasso. Tra l'altro una cosa molto interessante è una cosa su cui io mi concentro spesso, ad esempio analizzare il ruolo della donna in questi caroselli. Sì. Stavo guardando poco fa un carosello di un famoso tè in cui l'uomo seduto tranquillamente in poltrona leggeva un giornale, la mogliettina arrivava col vassoio, gli porgeva il tè e lui finalmente, da queste piccole cose, da queste piccolissime notazioni, emerge un grande capitolo della storia d'Italia, emerge veramente una sociologia che non è una sociologia da supermercato se la stiamo a guardare con gli occhi giusti e con una giusta prospettiva storica. Il riposo del guerriero. Cinema, letteratura, teatro, ovviamente, televisione, insomma, che cosa dobbiamo ricordare? Che cosa fa parte del nostro passato oppure non fa più parte del nostro passato? Penso ai nativi digitali o comunque ai nativi già degli anni 80 che non, il carosello li abbiamo mai visti, ecco, per cui, perché magari noi che li abbiamo vissuti siamo legati a qualcosa dei caroselli, invece oggi magari non hanno lo stesso effetto per chi li vede, perché saper cogliere le cose del passato non è così semplice. Allora, i numeri per i vostri messaggi, intanto 349-238-6666, voi che cosa volete assolutamente salvare, la memoria di che cosa deve restare? Marta Cagnola, che è al telefono ancora, credo, sì. Hai sì, ci sono, nel frattempo stavo sorridendo, ecco, tra me e me, perché tu parlavi dei nativi digitali. Sì. E io ho appunto sottoposto come esperimento scientifico mio nipote dodicenne alla visione di alcuni caroselli, perché volevo capire le sue reazioni. Cioè magari allora si addormenta, hai capito? Perché no. Divertitissima. La prima domanda è stata: ma zia, erano tutti in bianco e nero? Sì. Perché noi tante cose le diamo per scontate. Certo. E allora spiegare che la televisione era in bianco e nero, che lo è stata in Italia fino al 76, eccetera, eccetera, eccetera. E poi loro che sono abituati a vivere la pubblicità in maniera completamente diversa dalla nostra, rimangono veramente stupiti, proprio per la concezione. Ma quindi comunque catturati. Ecco. Lui poi era molto stupito soprattutto dalla cura, dalla bellezza intatta delle animazioni. E infatti Enrico Groppali, certo, Enrico Groppali diceva quella era arte, comunque sia, arte. Erano dei piccoli veri film. Assolutamente. Tra l'altro voglio ricordare una cosa così, una cosa curiosa, proprio perché si girava in bianco e nero, cioè, poi si trasmetteva così, sarebbe stato impossibile vedere a colori le riprese, perché i colori non erano quelli giusti, nel senso che perché un grigio sembrasse quel grigio nel bianco e nero, si usavano colori che se tu avessi visto a colori sarebbero stati improponibili. Ci sono telefilm che se voi vedete a colori, che però appunto venivano trasmessi in bianco e nero, vedete le porte rosse, le finestre gialle, cioè dei colori assurdi, ma in realtà nel bianco e nero rendevano perfettamente la tonalità di grigio. Quindi è curioso come comunque si dovesse pensare dal punto di vista fotografico anche in quel senso. E, Marta, a parte il carosello, ecco, tu dicevi anche le cose brutte della nostra storia, comunque non soltanto. Tu ricorderesti, dicevi, i caroselli rappresentano un po' cioè, la nostra vita di quell'epoca, ma anche non sempre e solo in senso positivo. Non sempre solo in senso positivo, appunto, come dicevamo prima, ricordavo il ruolo della donna in certe cose, io mi arrabbio davvero, però l'Italia era quella. Sì. Per quanto riguarda le pagine brutte della televisione italiana, non possiamo non ricordare ad esempio la bruttissima storia di Vermicino, la prima volta in cui la televisione italiana scoprì la cronaca in diretta. La diretta costante. Ne abbiamo parlato a lungo a Radio 24, perché il protagonista di quella diretta era Giancarlo Santalmazzi, che ha a lungo lavorato con noi e che ci raccontava spesso di quello che successe quella volta. L'Italia era per la prima volta alle prese con l'uso del mezzo televisivo in un caso di cronaca così brutto, così grave, così triste. Anche perché purtroppo finì tragicamente, ecco. Finì tragicamente e chissà purtroppo quanti altri casi analoghi sono successi nella storia d'Italia. Credo siano proprio innumerevoli, ma quello è rimasto nell'immaginario collettivo. Io ero bambina piccolissima, me lo ricordo molto bene, perché lì la televisione stava cambiando l'immaginario degli italiani. È una pagina bruttissima che però racconta molto di noi, di quello che eravamo, di quello che poi saremmo stati, di quello che sarebbe stato poi il nostro rapporto con la cronaca e con il mezzo televisivo. Ecco, Enrico Groppali, che cosa salveresti? Avevi citato prima due donne protagoniste della loro epoca, per quello che hai raccontato. chi vorresti aggiungere? I nomi sono tantissimi, adesso te ne faccio scegliere qualcuno che per te andrebbe assolutamente salvato. Allora, ritornando alle signore, per esempio una grande scrittrice come Muriel Spark, ancora oggi pubblicata prima da Mondadori e poi da Adelphi, una grande amante dell'Italia, perché questa signora scozzese che cominciò la sua carriera al Foreign Office nei servizi segreti, e lo confidò anche a me, dice: siccome io avevo una grande capacità di raccontare delle storie, ma mi ero finora occupata soltanto come saggista di raccontare la storia di personaggi famosi della letteratura, il mio primo libro era stato una biografia di Mary Shelley, la famosa moglie del poeta, l'autrice di Frankenstein, allora io con i miei collaboratori a Londra studiavo dei messaggi particolari da far recapitare nei luoghi adatti ai tedeschi, ai nazisti, perché e delle false informazioni per coglierli sul fatto e per spingere l'Inghilterra verso la vittoria finale. E questo mi è servito perché poi nel primo dopoguerra ho deciso non di sfruttare le storie che avevo già scritto e che erano servite per motivi politici, possiamo tranquillamente dirlo, ma di diventare proprio una scrittrice tout court di avvenimenti immaginari ma fondati nella realtà. Ricordiamo per esempio il suo libro più famoso, che in Italia ha avuto un'infinità di traduzioni diverse, Gli anni in fiore della signorina Brodie, detto anche Gli anni fulgenti della signorina Brodie, dove la protagonista è una zitella inglese, insegnante di storia dell'arte, la quale alle sue allieve dice, negli anni 50, ricordatevi che Mussolini era stato un uomo straordinario, la cosa è ambientata anni prima. E perché, signora? Ma perché faceva arrivare sempre i treni in orario in tutta Italia. E il romanzo poi finisce con la seconda protagonista del romanzo, la quale, non potendone più dell'educazione che le è stata impartita quando era giovanissima, si fa addirittura monaca per sfuggire al mondo. Da questo romanzo è stato tratto un film che ha avuto stranamente poco successo, da noi si è intitolato La pazza voglia di Jean, che però fece meritare l'Oscar a una grande attrice come Maggie Smith. E dai suoi romanzi sono stati tratti molti film di successo. Per esempio, La badessa di Crewe è un romanzo delizioso in cui è un Watergate al femminile ambientato in un convento, che al cinema è stato interpretato da Sandy Dennis contornata da Glinda Jackson e da Melina Mercuri addirittura. E poi invece la riduzione cinematografica che la stessa Spark detestava del suo romanzo Il seggiolino del guidatore. È stato un film italiano intitolato Identikit, regia di Giuseppe Patroni Griffi, ma con protagonista Elizabeth Taylor, più Luigi Squarzina e addirittura Andy Warhol, che racconta la storia di una donna tedesca che arriva in Italia e vuole visitare per la prima volta Villa Borghese allo scopo di trovare uno stallone italiano che la uccida durante un accoppiamento, diciamo così, di fortuna. E siccome la signora Spark, dato che Spark in inglese significa scintilla, sì, è molto curioso cosa lei confidava della propria vita. Lei viveva, pare more usorio, anche se non aveva mai confidato, con la sua segretaria, confidente e così la scultrice Penelope Jardin. E le due donne, la Spark è scozzese, di fede protestante, si era convertita clamorosamente al cattolicesimo, vivevano a Roma in Campo dei Fiori e nel 68 improvvisamente si trasferirono in una piccola città toscana. Io dissi: ma come mai, signora? Perché Roma non le piaceva? Non lo so, il clima anche ideologico le era diventato insopportabile. Lei disse: eh sì, caro, perché sa, io sono libertaria, ma naturalmente con tutti questi movimenti anticonformista, comunisti, il 68 eccetera, allora abbiamo deciso di lasciare la casa in Campo dei Fiori, l'abbiamo chiusa, 400 metri quadrati, e siamo scappati nella regione italiana dove i comunisti non ci sono, e cioè la Toscana. Ma dico, ma è esattamente il contrario, dico, mi sembra proprio che sia stata una scelta molto infelice dal vostro punto di vista. Ah, dice, è la storia di Identikit. Vede, Luchino Visconti voleva farne un film, il trattamento doveva firmarlo Masolino D'Amico, dopodiché mi hanno fatto questa cosa, io volevo un'attrice inglese, un'attrice anche consumata ormai non dalla voglia, ma addirittura dal desiderio di annientarsi fisicamente, ed è arrivata Elizabeth Taylor, che con tutta la stima era anche una donna gentile, è venuta a trovarmi, ma tutta così plump, così grassa, certo, e così sprizzante, dice di una vitalità da formaggini svizzeri. Io ho sempre detestato, dice questa attrice, come interprete delle mie parabole. Mentre invece naturalmente c'è stata. E poi dico: ma signora, ma lei ha avuto anche un figlio, ha avuto un marito, mi può dire qualche cosa della sua vita privata? E lei disse: guardi, il mio matrimonio si spiega con questo fatto: avevo contratto alla fine della guerra una terribile forma di influenza, quando stavo guarendo, ma mi tenevano ancora in quarantena, siccome le donne con cui stavo nel reparto erano così sciocche, facevano dei discorsi così stupidi, io ogni tanto mi infilavo nei corridoi in cui i poveri degenti maschi trascorrevano le loro lente ore in attesa della liberazione definitiva dai loro malanni per essere restituiti alla luce del mondo. E siccome ero stata sfrattata dal mio appartamento, incontrai il maggiore Spark, che mi offrì di andare a vivere con lui. Io naturalmente, che ero viziata da un'educazione borghese, dice: ma certo, io verrò a vivere con lei, accetto l'ospitalità nel suo appartamento a patto che mi sposi. E lo sposai, anche perché lui mi portava dei nasturzi, mi portava dei fiori bellissimi sempre in ospedale. Dice: e quanto durò il matrimonio? Ma sa, lo seguì anche in Rhodesia, ma il matrimonio era finito. Forse, diciamo, il matrimonio come rapporti, abbiamo avuto un figlio e così, forse mi lasci pensare, non so se è durato 35 o 36 giorni, però io lo seguì in Rhodesia perché mi piaceva la Rhodesia e mi piaceva l'idea di visitare l'Africa. Ecco, quindi anche il matrimonio sarà finito, almeno si è fatto un viaggio in quel senso. Marta, quali sono, visto che abbiamo comunque citato anche il cinema con Enrico, i film che tu assolutamente vorresti far vedere al tuo nipote, perché deve vederli? Allora, io direi, visto che oggi è il giorno della memoria, vorrei tornare sul tema. Io citerei alcuni film molto divertenti, perché non dobbiamo dimenticarci che l'umorismo yiddish è il più bello del mondo, e quindi facciamo un salto mortale, una capriola, una cosa di... Allora, io ti direi Prendo e V di Radu Mihai Leanu, perché forse, magari, non so, ridere e sorridere fa rimanere più impressi alcuni concetti. Poi ti direi A Serious Man dei fratelli Coen, perché anche lì l'umorismo ebraico ci insegna tantissime cose, perché ci fa ridere a denti stretti, ma ci fa davvero ridere tantissimo. E poi io sceglierei un trio incredibile, che sono i registi e sceneggiatori Zucker, Abraham Zucker, che sono quelli di Una pallottola spuntata e L'aereo più pazzo del mondo, ma io andrei nella Guerra Fredda e vi proporrei di riguardare un film che ha quasi 30 anni ma non ne dimostra neanche due, ed è il film che mi fa più ridere al mondo, che è Top Secret con Val Kilmer. E secondo me, se riscopriamo questo umorismo, questo modo di vedere la vita, capiamo tante cose, e certi distinguo non si fanno più, certe cose potrebbero, non dico non ripetersi, però forse ci pensiamo qualche volta in più, e questo sarebbe secondo me già un grosso risultato. Grazie Marta Cagnola. Intanto un ascoltatore ha scritto: vorrei che riprendessimo a cantare e a fischiettare, che in qualche modo è quello che hai detto tu, insomma, adesso, Marta, quindi riprendere a sorridere e divertirsi, leggere le cose anche col sorriso quando non dovremmo farlo, ma per poterle vedere anche da un altro punto di vista, no? Perché poi quello ci insegna ad andare avanti. Grazie Marta, davvero. Buona domenica. Grazie. Il riposo del guerriero. Alberto Tonti, buona domenica. Buona domenica a voi. Alberto, insieme a Enzo Gentile, ha scritto il dizionario del pop rock, edito da Zanichelli. Allora, con te volevamo così capire quali sono le tracce che assolutamente non andrebbero dimenticate, e qual è la ragione, insomma, dal tuo punto di vista. Ma quanto tempo abbiamo per dirlo? Poco, però ci proviamo, perché sono tante, immagino. Tu, visto che hai già fatto una scelta di 3 pezzi, innanzitutto, va bene. Beh sì, perché io sono un anziano, per cui mi sono tenuto sui miei vecchi amori, però di tracce di musica, se stiamo parlando di pop e di rock, tralasciando la classica, che quella lì bisogna tenersela tutta, certo, perché è fondamentale. L'elenco è lungo e quindi lo immagino. Vado a pezzi, nel senso che le rivoluzioni musicali degli ultimi 60 anni sono state non tantissime ma fondamentali. Vabbè, diciamo che la prima è stata il rock and roll negli anni 50 in America, poi c'è stata la rivoluzione beat, quindi l'Inghilterra dei Beatles, tanto per capirci, e poi Dylan sempre negli Stati Uniti, con la sua musica all'inizio folk, politica e poi non più acustica ma elettrica, e poi fino ai giorni nostri. Però voglio dire, c'è stato il punk, c'è stato poi il rap, la musica hip hop, voglio dire, sono tutti i momenti della musica, della storia della musica, che vanno comunque mantenuti e non dimenticati. Sì. Tanto per fare un riassuntino brevissimo. Ma è giusto che tu lo faccia. Non hai citato i Pink Floyd, per esempio? Ma i Pink Floyd sono, assieme ad altri gruppi del periodo, fondamentali per quel movimento artistico che si è staccato un po' dal pop, dal rock, e si è inventato una musica molto più complessa, molto più, diciamo, da ascolto meditato. E quindi naturalmente anche i Pink Floyd, come altri gruppi di quel periodo, soprattutto la psichedelia, hanno fatto la loro storia, quindi certo non me li sono dimenticati, ma erano nel mazzo del racconto di prima. Ecco, allora vogliamo fare sentire un pezzettino, per esempio, di Sam Cooke, What a Wonderful World. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. Ecco, ce lo ricordiamo grazie alla pubblicità. Sì, ma guarda, lo sto scherzando. Cook, no, è vero, però... ma Sam Cooke è un personaggio che, a dirlo come nome, lo conoscono in pochi, oddio, almeno di quelli che conosco io lo conoscono in pochi. Sa di fatto che poi quando apre bocca e canta una canzone tutti dicono: ah sì, certo, questa l'ho sentita anch'io, la conosco, l'ho sentita in un film, l'ho sentita in una pubblicità. Ed è un personaggio straordinario che io considero maggiore, anche se è stato minore rispetto a grandissimi personaggi dell'epoca. Sa di fatto che è stato il primo cantante di colore che ha messo nei testi delle canzoni la speranza di un cambiamento. Ha scritto una canzone che si chiama Change is Gonna Come, che è poi è stata usata anni dopo da Obama per la prima campagna elettorale, ed è una prima canzone, diciamo, scritta da un nero, tesa a far sì che qualcosa potesse cambiare. Poi è morto troppo giovane, purtroppo, perché se n'è andato prima dei 30 anni, per cui è riuscito, diciamo, a scrivere tutto quello che ha fatto prima di quell'età, ma se fosse andato avanti sarebbe stato uno grandissimo. Perché hai scelto questa canzone dei Beatles? I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. È cantreggiante questa traccia dei Beatles, sì, tuo vaso. Perché l'hai scelta? Perché è fuori dagli schemi dei Beatles. Decisamente. Se uno se la mette nell'iPod, se la mette, se la porta dietro, quelli che passeggiano, che camminano, che fanno un po' di footing, se la mettono all'orecchio con le cuffie è perfetta. Poi magari se poi la rimetti un pezzettino e prova a camminarci anche lì in studio e non, ma già mi veniva, io già mi immaginavo i Riders così, capito, il Toro Meccanico, queste cose. Non so. Quello lì è stato uno scherzo, la scelta di quel pezzo, anche perché ecco, di pezzi di Beatles ce ne sono talmente tanti più belli di quello che l'imbarazzo. No, infatti mi incuriosiva chiederti perché avessi scelto questo e vi faccio sentire anche il terzo pezzo che ha scelto Alberto Tonti. I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make you, me feel this way? It's my girl talking about my girl. Otis Redding di My Girl. Alberto, perché questa scelta? Ma perché My Girl è, dal mio punto di vista, una delle, se io dovessi scegliere fra cinque canzoni da mettere in testa a una lunghissima classifica, una delle cinque sarebbe questa in assoluto. E poi perché, come la canta Otis Redding, non l'ha cantata nessuno e la trovo veramente straordinaria. E come vedi, anche Otis Redding, essendo un cantante di colore, mi riporta al fatto che alla lunga io forse nella mia vita ho amato più la musica di colore che la bianca. Grazie Alberto Tonti, insieme a Enzo Gentile, dizionario del pop rock, editore da Zanicari, da poco fra l'altro uscito. Grazie ancora, buona domenica. Grazie a te. Ciao, ciao. Enrico, abbiamo solo un minuto ed è troppo poco per raccontare tutto, ma cita solo il titolo del film che ti è venuto in mente. Allora, riallacciandomi a Marta e all'umorismo ebraico, sì. Interiors di Woody Allen, che è un film straordinario che va visto e rivisto. Ma anche del 65-66, Non tutti ce l'hanno, The Knack di Richard Lester, sì. Che, dato che Knack vuol dire l'abilità, non tutti ce l'hanno, che era quella di sedurre una ragazza, e che era un film incantevole, non della rivolta giovanile, ma della presa di coscienza giovanile della nuova generazione, che non a caso veniva dalla Londra di Mary Quant. Dalla Londra proprio del 65. Ecco, quindi il Knack era il Il Knack era l'abilità di attrarre una ragazza, ecco, e di sgraffiarsela. Il titolo in inglese. Chiaramente non in Italia, non tutti ce l'hanno, tutti che ce ha chiaramente l'hanno. Un doppio senso. È un e doppio quindi, senso, ecco, come sempre questa abitudine a rovinare i titoli. Sì, del... che ha rovinato moltissimi i titoli anche di film deliziosi. Mi ricordo un film, Cesare e Rosalie, con Yves Montand e Romy Schneider, e in italiano è saltato fuori, è simpatico ma gli romperei il muso. Un altro film invece con Alida Valli, che vinse a Cannes il premio per la migliore interpretazione, sì. Su uno scenario di Marguerite Duras, Un aussi longue absence, un'assenza così lunga, che divenne invece, oddio, come divenne Un aussi longue absence? Ah, divenne una cosa dunque, Adesso lo cerchiamo. Adesso, anche perché il titolo sarebbe bello anche in italiano tradotto così. Perché sì, hanno dovuto cambiarlo perché poi le esigenze di produzione. No, perché li cambiavano tutti. Sì, perché sennò pensavano che la gente però non andasse a vedere la pellicola. Sì, cose terribili. Intanto arrivano anche i vostri messaggi con le cose che vorreste mantenere nella vostra memoria. E quindi, ovviamente, tra poco leggerò anche i messaggi. Qualcuno cita, scusatemi, Witness, poi altri ancora, ce ne sono tanti, li leggiamo dopo e andiamo anche a recuperare quel titolo tradotto in italiano che non abbiamo trovato. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, le 11:08 minuti, continua il riposo del guerriero. Oggi parliamo delle cose da ricordare, della memoria, delle cose da non dimenticare, soprattutto per quanto riguarda la musica. Abbiamo sentito prima Tonti, poi la televisione, il cinema, la letteratura, il teatro. Ancora con me in questo momento c'è Enrico Groppali, autore, critico teatrale. Enrico, tra l'altro Enrico, lo sapete, ha intervistato anche tantissimi personaggi del mondo del teatro e del cinema, e tu volevi ricordare giustamente anche dei nomi legati alla letteratura per i bambini. Allora, per esempio, un meraviglioso autore come Maurice Maeterlinck, l'autore anche della Vita delle api, la Vita delle formiche, eccetera eccetera, anche un grande esoterico, ha scritto prima a livello letterario e poi a livello teatrale una meravigliosa favola intitolata L'uccellino azzurro, che scarsamente messa in scena, ma che ha dato luogo al più curioso flop della storia del cinema americano. Con il titolo italiano Il giardino della felicità, fu la prima e credo unica coproduzione tra la Russia ancora sovietica e gli Stati Uniti, con la regia di George Cukor, e le tre attrici protagoniste erano Jane Fonda, Ava Gardner ed Elizabeth Taylor. Fu un grande flop, però la favola è meravigliosa perché L'uccellino azzurro è la ricerca della felicità che si può soltanto per un attimo cogliere e l'attimo successivo è già svanita. E un'altra, una scrittrice cara alle nostre nonne, che si chiamava Emma Perodi e che scrisse Le novelle della nonna, che Einaudi negli anni 70 ristampò con grande successo col titolo Fiabe fantastiche, perché non erano soltanto delle fiabe di atmosfera gotica, ma quasi tutte ambientate nel Casentino. Ma la cosa più bella di questa raccolta è che non si trattava di una silloge, una fiaba, poi un'altra, una successiva, eccetera, eccetera. No, si parlava, era praticamente la genealogia, la storia di una famiglia contadina toscana che attraverso l'espediente della nonna che raccontava la favola davanti al focolare alla famiglia riunita dopo cena, era una specie di, come possiamo dire, intermezzo prima che nella puntata successiva e prima naturalmente che nella novella successiva apprendessimo altre cose sulla genealogia, sulla mitologia, sulle leggende del contado, andava avanti la storia di questa famiglia. Era come un romanzo a puntate sulla vita familiare intramezzata dalla favola. Dalla favola. Ed era incantevole. Allora, quindi da recuperare sicuramente, da ricordare. Per quanto riguarda invece i titoli, così discutevo del fatto che spesso, adesso non si usa più tanto, no, però insomma è stato un periodo lungo in cui i film sono stati, i titoli sono stati tradotti in modo aberrante. L'altro era On Aussi, dillo tu. Un Aussi Longue Absence, ecco, era diventato L'inverno ti farà tornare. Ecco. Che perlomeno è un bel titolo, sì. Ma invece un delizioso film di François Truffaut intitolato Le domicile conjugale, il domicilio coniugale, sì, venne tradotto in italiano Non drammatizziamo, è solo questione di corna. Lascio a voi sempre le deduzioni del caso. Sembra un film di Franco e Ciccio. Sì, infatti è così. Gianni di Udine, fra l'altro, scrive un altro titolo, Red Fish, che venne tradotto con Rusty il selvaggio. Ecco. Bene. Allora, io parlando di memoria e raccontando anche all'inizio della puntata che ci sono gli oggetti che non si vorrebbero dimenticare, quelli che in qualche modo si vogliono accumulare perché ci ricordano qualcosa, mi è venuto in mente di parlare anche della compulsione, quella di appunto tenere, non buttare. Susanna Murray, buona domenica. Buongiorno a tutti. Allora, psicologa specializzata in psicoterapia espressiva e ci spiega, proprio questa compulsione, sì, che ormai ha un nome, si chiama disposofobia. Sì, esatto, si chiama disposofobia. In realtà, cioè, se ne parla recentemente, i mass media non danno più attenzione a questo, un po' perché insomma ci sono anche dei programmi televisivi che ne parlano, ma un po' anche perché recentemente la comunità scientifica internazionale l'ha riconosciuto proprio come disturbo a sé stante. Infatti nella prossima edizione del manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali uscirà proprio la disposofobia come patologia a sé. Ah, che prima non era appunto vista come qualcosa, no, a sé, ma era, esatto, inserita in un altro insieme di patologie. Sì, era inserita nel cosiddetto disturbo ossessivo compulsivo, ma si è visto nelle ricerche che in realtà ci sono delle caratteristiche molto specifiche negli accumulatori compulsivi e quindi hanno fatto pensare che bisognava approfondire un po' meglio la sintomatologia e anche soprattutto il trattamento. Ecco, diciamo, da cosa cosa ci fa accorgere che stiamo andando in quella direzione? Ecco, questo, l'accumulo compulsivo, come qualsiasi altro disagio psicologico, la differenza tra la normalità e la patologia lo dà più che altro gli effetti di, sì, quello dell'atteggiamento, del comportamento, nel senso che nel momento in cui la qualità della nostra vita viene ad essere condizionata in modo negativo e anche viene proprio limitata al normale svolgersi della nostra quotidianità, beh, allora dobbiamo cominciare a chiederci se c'è un problema. Purtroppo chi soffre di accumulo compulsivo, quello che vedo un po' io, ma che un po' rimandano anche le ricerche, è che non se ne ha consapevolezza. E quindi spesso le richieste, almeno quelle che ricevo io, sono più che altro dai familiari. Sì, arrivano dalle persone esterne che si trovano di fronte a una situazione di quel tipo. Sì, che vivono, sono i figli che convivono in case sormontate di oggetti dove non c'è spazio per camminare. E che comunque insomma vivono un po' anche con vergogna questa situazione. Ecco, Susanna, non so se si possa dire o se ci sia una chiave, ma c'è normalmente una condizione psicologica che porta a quello o le motivazioni sono svariate e quindi non ce n'è, sì, una in particolare? Ecco, su questo ci sono diversi punti di vista. Ecco, c'è chi parla di traumi antecedenti, no? Allora, sicuramente, dato che oggi insomma parliamo anche della giornata della memoria, possiamo dire che c'erano situazioni di grande deprivazione, come può essere stati dopo guerra, ma anche gli scampati all'Olocausto, che effettivamente sono stati alcuni casi di gente che poi a causa di questa grande mancanza si è ritrovata negli anni a seguito ad accumulare oggetti, accumulare cose, proprio per la paura di ritrovarsi in quella condizione di grande deprivazione. Però quelli sono casi di... Sì, limite, no? In realtà... I motivi, sì, si dice, sono tanti, cioè questa è una possibilità, esatto, ma non è sicuramente l'unica perché detto, ce ne, no, sono tante. Sì, cioè quello che di fondo è che in realtà l'accumulatore compulsivo crea un rapporto speciale con l'oggetto, cioè l'oggetto diventa quasi umanizzato. Quindi una, no, parte quindi di se relazione. Stesso e quindi privarsene, sì, significa togliere una parte di sé, insomma, esatto, questo esatto, adesso detto esatto, banalmente, però è stata molto, sì, chiara. Grazie Susanna Marrì e buona domenica, grazie ancora. Grazie, arrivederci. Allora io ti devo salutare, Enrico, ma una domanda velocissima, la risposta, tu... Qual è la cosa, il romanzo, il film, non lo so, una foto della quale non vorresti mai separarti? Un romanzo di Walter de la Mare, un autore inglese dal nome francese, che sembra un autore del Settecento, ma invece è morto nel 1956, quindi in un'epoca relativamente recente, e che ha scritto un meraviglioso romanzo intitolato Memorie di una donna in miniatura, dove si finge che una nana... vissuta nel 1700, non abbia più dato notizie di sé, sia fuggita dalla casa che la ospitava e abbia lasciato un memoriale in cui dalla sua piccola statura ha giudicato gli uomini. E l'ha giudicati, naturalmente non sempre in forma benevola, certo, e ha soprattutto ci ha dato una radiografia incredibile degli oggetti più piccoli del mondo, lei compresa. E il centro nevralgico del libro è in due frasi, è in due capitoli. In il primo capitolo, quando lei fugge e decide, dopo essere stata sfruttata come un balocco vivente da tutte le signore e i signori che l'avevano simbolicamente adottata per esibirla nei salotti, di esibirsi a pagamento attaccata alle briglie di un cavallo che velocemente la trascina sulla sabbia sabbiosa, sul terreno sabbioso del circo. E soprattutto in una grande epifania del libro in cui lei offre un grande ricevimento a tutti i nani e tutte le nane del mondo. Grazie Enrico Groppari, davvero, ma noi ci sentiamo anche le prossime domeniche 11:17, gli aggiornamenti sul traffico e poi parliamo di giochi e ovviamente della nostra lingua, l'italiano. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Oggi ci divertiamo e ci divertiamo utilizzando ovviamente la nostra memoria. Ciao Andrea Ligabue, il nostro ludologo, buona giornata, buona domenica. Buona giornata, buona domenica Stefano e ciao a tutti. Allora, cominciamo spacciandoci per degli investigatori in qualche modo. Lo deduco dal titolo del gioco che è Sherlock. Sì, Sherlock è diciamo un gioco molto interessante, è un memory collaborativo. Viene importato in Italia da Genos Games, che è una ditta di Milano, ed è un gioco in cui praticamente i giocatori insieme devono riuscire a risolvere questo memory entro diciamo 10 errori, cioè ogni volta che loro sbagliano viene girata una carta errore ed è praticamente il colpevole, rappresenta il colpevole che fugge. Il meccanismo è molto semplice perché ci sono 6 personaggi diversi che vengono messi in 6 colonne, cioè ogni colonna ha una carta di ognuno dei 6 personaggi e quindi lo scopo del gioco è riuscire a trovare non più delle coppie ma in questo caso del perne con 3 personaggi uguali in 3 colonne diverse. La cosa carina è che man mano che il gioco si sviluppa ovviamente i personaggi vengono rimossi e uno sa a seconda del tipo di personaggio in che colonna si può ancora trovare e in che colonna no e ovviamente si discute tutti insieme al tavolo, ma io mi ricordo l'avevo visto qua, no, il bufalo è qua, la topolina lì, insomma è molto particolare. C'è anche una versione in cui ogni giocatore ha un obiettivo segreto e quindi diciamo l'aspetto collaborativo viene incrinato con anche diciamo una competizione finale. Ecco, senti, apriamo una parentesi su Memory perché lo citeremo diverse volte oggi, tu l'hai appena fatto, che è, diciamo un po', è il classico gioco della memoria. Vogliamo ricordare la regola, che poi fondamentalmente è una, del classico Memory per capirci? Sì, il classico Memory è molto semplice, un giocatore nel suo turno può girare 2 carte, 2 tessere a seconda delle varie versioni del Memory che esistono e deve riuscire a trovarne 2 uguali. Se ne trova 2 uguali nel gioco del memory classico ha diritto a ritentare ed estrarne anche 2 in questo modo fin tanto che non riesce, non sbaglia. Se invece diciamo le 2 tessere non sono uguali vengono di nuovo capovolte e lasciate lì e man mano i giocatori, specialmente i bambini, riescono a ricordarsi la posizione di tutte le tessere diciamo, quindi riuscire ecco, quelle che avevano visto. Ecco, mi ricordo che un gioco in qualche modo un po' simile per la memoria fatto con le carte è Famiglia, che è uno di quei giochi classici che si fanno con le carte. Parliamo ancora invece di tavoli da giochi da tavolo, non tavoli da gioco, e c'è Zicky Zack e Spenna il Pollo, che tu consideri molto divertente. Sì, Zicky Zack e Spenna il Pollo è il capostipite della casa tedesca Zock, che con quel gioco lì ha avuto proprio un successo enorme ed è importato in Italia da Giochi Uniti. Ci sono, diciamo, si crea un percorso con delle tessere a forma di uovo raffiguranti 12 oggetti di tipo diverso e di ogni oggetto ce ne sono 2 copie. Al centro di questo percorso vengono messe 12 tessere esagonali raffiguranti gli stessi oggetti. Ogni giocatore ha una gallina, nel suo turno deve girare tra le 12 tessere al centro del tavolo quella corrispondente all'immagine che nel percorso è esattamente davanti alla sua gallina. La cosa particolare è che finché, ovviamente come nel memory, finché riesce può continuare a girare, ad avanzare. Se raggiunge e supera uno degli altri polli gli ruba la coda e l'aggiunge al suo pollo. Il giocatore che per primo riesce a rubare tutte le code vince. La cosa carina di questo gioco è che nel momento in cui tu vieni superato di fatto il tuo pollo è dietro a quello dell'avversario, quindi quando sarà il tuo turno facilmente riuscirai a riraggiungerlo e superarlo. Con questo meccanismo diciamo i giocatori sono sempre tutti in competizione fino alla fine. È un gioco che ai bambini piace tantissimo perché ha una grafica stupenda, dei materiali molto belli ed è diciamo basato sulla memoria. Sappiamo tutti che i bambini in quanto a memoria sono molto più competenti che noi. Ecco, poi vedremo anche che non sarà solo così con l'ospite che ci sarà dopo di te. Io vorrei chiudere, questo era il titolo era Zicchi Zacche Spenna il Pollo, comunque sul nostro Facebook poi troverete tutto. Io volevo chiudere invece con un'iniziativa che è ludotecaideale.it. Sì, allora, diciamo da anni le associazioni di giocatori stanno cercando di fare un po' quello che facciamo noi in questa trasmissione, cioè aiutare chi non conosce i giochi o chi ne conosce pochi ad orientarsi nel panorama delle tante uscite italiane. Ogni anno quindi, diciamo, una giuria di esperti e membri delle maggiori associazioni ludiche italiane compiono una selezione dei titoli migliori usciti in lingua italiana prodotti da editori italiani. Questi titoli, diciamo, vengono elencati in questa lista che si chiama la Ludoteca Ideale, quindi vuole rappresentare il fatto che uno, se si vuole comprare 10 giochi in un anno, compra quei 10 giochi lì ed ha una bella ludoteca. E questa iniziativa viene presentata durante il Festival del Gioco a Play, dove questi giochi vengono messi in evidenza con dei tavoli dimostrativi durante tutta la convention. Quest'anno, l'edizione di quest'anno, in cui i titoli in concorso sono proprio in questi giorni, vengono presentati, avrà una ludoteca ideale di 10 titoli per famiglie ed adulti e una sezione di 3 titoli specifici per bambini al di sotto degli 8 anni. Ecco, quindi se volete tutte le informazioni e votare anche, andate sul sito ludotecaideale.it. Grazie Andrea Ligabue, ciao, buona domenica. Grazie Stefano, buona domenica a tutti. Ciao, parlando di memoria, ci sono, è vero, i bambini, ma ci sono anche, chiamiamoli gli adulti, anzi i bambini giovani nel tempo, così si devono chiamare. Laura Guidi, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, tu sei l'ideatrice di un progetto che si chiama proprio giovaninneltempo.it, un progetto che gioca proprio con la memoria. Assolutamente. È proprio nato per questo, per proteggere la memoria, ci tiene il professor Tattat a dirlo, per proteggere la memoria, per mantenere la riserva. Se noi ci costituiamo una bella riserva, poi quando c'è bisogno, magari che siamo un po' più avanti negli anni, poi noi ce la troviamo e la utilizziamo. Ecco, i giochi sono stati anche pensati, sono 3 i titoli che poi racconteremo, per chi soffre di Alzheimer. Assolutamente sì, nel senso che l'idea è nata da lì, perché è nata da una promessa che ho fatto alla mia mamma malata di demenza, e nel vedere in questa mia esperienza come non ci fossero degli strumenti per farli giocare, degli strumenti idonei, insomma, quindi con gli psicologi e i geriatri siamo arrivati a mettere in piedi questo progetto. Ecco, cosa è successo? Quindi sono stati ideati 3 titoli diversi, sono 3 giochi che hanno a che fare con la memoria, ovviamente, li trovate sul sito giovaninneltempo.it, li hai messi in pratica, li hai giocati chiaramente, e i risultati quali sono stati? I risultati, ti dico, sono superiori alle aspettative, proprio perché le persone che giocano loro, intanto siamo partiti a testargli delle strutture, quindi siamo partiti dalle case per anziani, poi li abbiamo anche testati nelle famiglie, quindi abbiamo visto come poi in effetti siamo arrivati, e lo diciamo sempre, anche proprio sono idonei per le case di tutti, perché vedi, la cosa splendida è vedere il nipotino che gioca con il suo papà e con i suoi nonni, hai capito? Proprio aiuta molto, diventa un po' questo gioco, un'interazione tra le generazioni anche, capito? Favorisce proprio il contatto, lo scambio di sane e positive emozioni, capito? Questo al quale mira proprio anche il progetto. Ecco. Colmare un po' anche il gap che c'è di differenza, questo ce l'hanno detto anche i geriatri, ce l'hanno riconosciuti proprio che hanno accettato la nostra partecipazione all'ultimo congresso che c'è stato a Milano della SIG, della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Ecco, quindi diciamo che la regola che ha portato alla creazione di questi giochi, ma anche che dovrebbe far parte della nostra vita, è la frase che la nipotina ha detto alla nonna e che ha fatto scattare se vuoi tutto. Tu già ridi perché sai cosa sto per dire, che dici: nonna, tu non sei anziana ma sei bambina. Tu, nonna, tu non sei vecchia. Vecchia, ma sei giovane da molto tempo. Esatto, quindi siamo tutti giovani da molto tempo, dobbiamo assolutamente ricordarcelo. Grazie Laura Guidi anche per quello che hai fatto e per l'idea che hai avuto. Giovaninneltempo.it, buona domenica. Grazie, buona domenica a tutti. Freezing cold in 8 nights, Uso. Senti chi parla. Francesca Dragotto, buona domenica, ciao. Ciao, buongiorno e buona domenica a tutti. Sinceramente ti preferirei a Bordona piuttosto che Druda, eh? Comunque. Certo. Quando l'ingiuria viene dal passato, eccoci con l'abbecedario minore di insulti obsoleti o disusati. Assolutamente incomprensibili. A Bordone chi è? Quello che corteggia con insistenza. È per certi versi affine ad abbordatore, però c'è una piccola differenza di significato. Ecco, ballista non è così in disuso, noi a Milano lo usiamo ancora molto. Beh sì, si tratta di termini che prima avevano una diffusione, alcuni di questi termini avevano una diffusione maggiore e che adesso si sono polarizzati e quindi si ritrovano in alcune aree o presso alcuni ceti sociali. Nel caso di ballista si tratta di una variante di pallista, quello che racconta palle, bugie, fandonie. Il capassone. Oh, interessantissimo, ha a che fare con caput capitis del latino, è la parola per testa, a sua volta dal latino testum che significa vaso, vaso di goccio, di conseguenza la parola testa è una parola che viene, che ha un'origine inizialmente scherzosa, perché la parola invece di riferimento appunto sarebbe stata caput, indica lo zuccone, il testone, insomma tutto quello che normalmente siamo soliti esprimere in riferimento a un qualcosa di vuoto e che suona in consistente. Una druda o un drudo, ecco. Oh, termine provenzale, originariamente, etimologicamente significava soltanto amante, amico. Come spesso accade, calato nell'ambito delle relazioni licenziose, il termine passa ad assumere una connotazione un po' moraleggiante. Di conseguenza abbiamo la donna o l'uomo dediti a relazioni amorose illecite. Ecco, Francesca, se tu... L'epulone, sei un epulone. Esattamente, dovremmo dirlo al gastronauta perché qui si rinvia al banchetto. Il fannonnolo. Parola bellissima come significato, beh bellissima almeno per me che l'ho censita tra le centinaia di insulti provenienti dal passato, si avvicina a fannullone ma ha una valenza forse più onomatopeica, indica che non fa nulla. E il guidone chi è che guida molto? No. Certo, è un furfante, un briccone, si tratta di un adattamento di un termine spagnolo. Sei un infingitore. Fingi, inganni, simuli. E una lappola? Ti appiccichi come si appiccica il succo di alcuni frutti alla bocca oppure come alcuni uncini di alcune piante si attaccano ai vestiti o al manto degli animali. Ma sei una miccia. Un'asina. Un narcotico. Noioso, fastidioso. Un noblatratore, questo è difficile. Parola veramente obsoleta, la base è quella di latrare e quindi da latrare, oblatrare, abbaiare contro e allora l'oblatratore, appunto mi sono impizzata io stessa, oblatratore è colui che calunnia il maldicente. Questo mi fa ridere, il pappa lasagne. Ce ne sono tantissime varianti, con o senza il pappare o mangiare prima, tutte quante le varianti che hanno a che fare con l'alimentazione, di cui abbiamo parlato una settimana fa, sembrano impiegate per alludere allo sciocco, allo sprovveduto, all'incapace. Questa mi piace perché allude a una cosa, ma non è quella. Sei una testa di quarzo. Allude esattamente a quella, ma per non dire quella, si dice un qualcosa che somiglia, che è parafonico, quindi allude a quei suoni senza farceli pronunciare. E che è un rimbarborgito? Questa volta ti sei impizzato tu, la base è quella della barba, da barba si fa barbogio e da barbogio il rimbarbogito, che è colui che è rimbambito per effetto della vecchiaia. È uno sconoscente? L'opposto di riconoscente. Un trappolatore. Anche questo è molto interessante, da trappola, per indicare chi è solito imbrogliare tendendo delle trappole. Un utile idiota. Provenienza, termine coniato da Stalin, arrivato in italiano per il tramite del linguaggio della politica, è stato usato anche dalla gente per così dire comune per indicare chi è solito praticare delle politiche da cui non trae alcun vantaggio, anzi da cui a volte trae addirittura degli svantaggi per se stesso. Un vescicante. Altro termine che trovo estremamente interessante e che dovremmo rimettere in circolazione perché è molto espressivo, come la vescica, soprattutto se sotto il piede dà molto fastidio quando si cammina, il vescicante è quello talmente noioso e irritante da fare l'effetto vescica. E l'ultima parola invece, la Z spesso chiude anche i dizionari ma qualcuno la usa ancora, sei uno zuzzurellone, che poi non è un insulto ma è anche divertente. Esattamente, è probabilmente di origine scherzosa. La presenza di tantissimi suoni z fa sì che la parola sia fortemente espressiva, che si sia mantenuta, e l'ho selezionata perché tra le poche offese che abbiamo con questa lettera è l'unica che arriva dal passato. Ecco, allora, se volete tutto l'elenco completo con la descrizione, così guardate la bella ricerca che ha fatto Francesca, tuttopoli.com oppure Facebook. Grazie Francesca Targotto. Grazie mille, buona domenica. Ciao. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Oggi allora cosa dobbiamo assolutamente ricordare dal punto di vista enogastronomico? Ma sai, c'è da ricordare innanzitutto che se uno non ha una memoria olfattiva sicuramente difficilmente può dare dei giudizi sul vino, sul cibo e su tante altre cose che sta mangiando, quindi la memoria di chi si occupa sul cibo è fondamentale. Tu puoi fare i corsi, i corsettini che vuoi, ma se non hai memorizzato da bambino e nel tempo appunto i profumi e altro, su un vino non riesci assolutamente a raccontare cosa c'è dentro, così pure sui piatti. Poi credo che la memoria sia fondamentale per ricordare un po' tutta la nostra vita, perché io ritengo che ci sia una biografia gastronomica su di noi, nel senso che di ricordare ogni volta che si mangia magari qualche piatto o si sente qualche profumo, qualche sapore, un pezzo della nostra vita, da bambino, da adolescente, certi momenti importanti della nostra vita, certi incontri. Quindi io credo che la memoria sia tutto appunto legata al cibo e il cibo legato alla memoria. Ecco, secondo te, comunque sia, questo ricordare i profumi, i sapori, è legato a proprio a un fatto istintivo o si può così costruire durante la propria vita? Non dico migliorare, ma proprio costruire. Cioè, o uno ce l'ha o non ce l'ha, secondo te, o uno semplicemente lo recupera e lo attiva, diciamo? Ce l'abbiamo tutti, ma va attivato. Tu hai detto se lo recupera. Se uno recupera vuol dire che c'è già qualcosa. Sì. E allora sì, può recuperarlo. Però se uno ha una memoria vuota, è come un computer, il nostro cervello. Se tu dentro a un computer non hai messo niente, sicuramente... Tu dici che è un fatto di talento anche che uno non ha, insomma. C'è anche chi non riesce a sentire, non riesce a ricordare, anche se ci prova. Assolutamente. Secondo me ci sono tante persone che non riescono a sentire e a ricordare. Io credo invece, lo dico sempre, la cosa stupefacente del cibo, del vino e di tutto quello che fa parte appunto del mangiare, è una delle cose più straordinarie della nostra vita, perché ci aiuta a mettere in memoria e poi a ritirar fuori. Quindi io credo che la cosa più bella sia proprio questa del cibo. Io non sono di coloro che dici il gusto, quindi mangi per il piacere. Sì, c'è anche quello, però a me interessa di più questo fatto di sensazione e ricordo. Credo che sia la cosa più bella e più poetica della nostra vita. Grazie Davide Paolini, ciao, buona domenica. A presto, ciao, buona domenica a te, ciao. Chissà che cosa assaggerete oggi a pranzo, magari insomma il pranzo della domenica, per qualcuno è ancora il famoso pranzo della domenica, e quindi chissà quali sapori poi vi ricordano il passato, oppure momenti particolari della vostra vita. E tra poco invece si gioca, vi ricordo il numero, 800 24 00 24. Miro in 24 minuti. Dovete ricordare anche in questo caso, nel senso che dovete comunque ricordare la canzone che vi faccio ascoltare, perché in relazione a quella canzone c'è in questo caso il titolo di una delle opere di Miro che dovete dirmi. Fra l'altro moltissime delle opere di Miro il titolo non ce l'hanno, sono poche quelle con un titolo specifico, e il primo dei premi che voglio farvi avere è legato proprio al titolo invece di un'opera di Miro. Il premio consiste nel biglietto d'ingresso alla mostra Miro Poesia e Luce, che è a Palazzo Ducale fino al 7 aprile di quest'anno a Genova, ovviamente. Allora, la canzone è questa. Señor. Donatella da Padova, buona domenica. Buona Ciao. Domenica a voi. Riconosci questa canzone di Antonello Venditti? Sì, sì, famosissima. Famosissima. Com'è certo. che si intitolava? Sotto il segno dei pesci. Nata sotto il segno dei pesci, sì. Allora, c'è un'opera di Miró che ha proprio a che fare con questa canzone. Allora, io l'unico che mi viene in mente è The Singing Fish. Il pesce cantante. Sì. Sarà anche l'unica che ti viene in mente e anche l'unica giusta. Vabbè, ecco. Brava Donatella, per te il catalogo della mostra Poesia e Luce e il biglietto d'ingresso. Buona domenica, brava. Grazie, buona domenica anche a Ciao. Voi. Grazie. Il numero 80024 80024 stavo ripetendo due volte l'inizio. E tra poco c'è Maria D'Alecco e gli altri ascoltatori, ma cambia il quadro ovviamente. Anche in questo caso dovete indovinare il titolo di un'opera di Miró. Devo dire facilissimo. Miró in 24 minuti. Prima di farvi ascoltare la canzone legata al titolo dell'opera di Miró che dovete indovinare, volevo leggere due messaggi che riguardano ancora la puntata di oggi. Parlavamo delle cose da ricordare che devono rimanere nella memoria, in questo caso di film. Cetina che dice: fumo di Londra, perché in poco più di un'ora si racconta tutta un'epoca. E poi ancora Graziella invece scrive: nella mia memoria c'è Gris per l'allegria di un'epoca, Thelma Louise per il messaggio di liberazione, Kramer contro Kramer per l'impegno verso gli altri. E poi anche tutti i film di Clint Eastwood per parlare e andare al cuore dell'uomo. E invece per quanto riguarda Miró in 24 minuti, ecco la canzone. C'è la capra, capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia oh, attaccata a un carrettino, ia ia oh. C'è un quadrupede piccino, ia ia o oh, l'asinel, c'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia o oh. Tra le casse i ferri rotti, ia ia o oh. Dove i topi son grassotti, ia ia o oh. C'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asinel, c'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia o oh. Sempre grasso e tanto grosso, ia ia o oh. Tutto sporco il più non posso, ia ia o oh. C'è il maiale, iale, ia, ia, iale. C'è un bel gatto, gatto, gatto, gatto, gatto, l'asine, me, me, me. C'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia oh. Io mi sfido a cantarla sta canzone, perché è veramente difficilissima. Sembra una canzoncina, invece veramente difficile. Versione italiana del quartetto Cetra, famosissima, di Old MacDonald Had a Farm, se non mi sbaglio, cioè il vecchio MacDonald aveva una fattoria, insomma, poi nella vecchia fattoria in italiano. Maria D'Alecco, buongiorno. Buongiorno. Questa canzone non ha bisogno di presentazioni, te la ricordi, l'avrei cantata anche 100 volte, giusto? Certo, certo. Allora, io non ti devo molto aiutare, perché il titolo dell'opera di Miró legata a questa canzone è facilissimo, è proprio la cosa più diciamo immediata che ti possa venire in mente ascoltando nella vecchia fattoria del quartetto Cetra. Qual è il titolo dell'opera di Miró? La cosa più banale che ti possa venire in mente. Potrebbe essere Composizione di animali. No, no, è ancora più semplice. È proprio ancora più semplice. Mi dispiace, Maria. Ciao, grazie. Ciao, Mariangela da Firenze. Eccoci, buongiorno. Ciao, buongiorno, Mariangela. Allora, buongiorno a te. E com'è il titolo dell'opera di Miró che ha a che fare con questa canzone? La fattoria. Vabbè, più semplice di così. Sì, sì. Cioè, niente proprio, Brava Mariangela, per te il catalogo della mostra Poesia e Luce a Genova e il biglietto per entrare fino al 7 aprile. Buona domenica, grazie. Buona domenica, grazie a voi. E prima di Maria Teresa da Pavia, vi ricordo ancora il numero 800 24 00 24. Ecco un altro quadro da indovinare, sempre di Miró. Sciolgo le trecce, i cavalli corrono e le due gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella. Non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle. L'alba dissolve il tramonto, io non completo il mio canto e canto te. Maria Teresa da Pavia, buona domenica. Buona domenica, salve. Anche questa canzone è molto famosa. No. E non so il titolo. Non sai il titolo, era Balla di Umberto Balsamo. Balla, tutta la notte sei bella, canzone molto famosa di Umberto Balsamo, Balla. E anche in questo caso il titolo del quadro di Miro è proprio molto semplice, decisamente legato a questa canzone. È una parola sola. Balla. E non è proprio balla. Danza. Neanche. Canta. Poi grazie Maria Teresa. Salve. Ciao, ciao, mi dispiace. Beatrice da Milano, buona domenica. Buona domenica. Allora Beatrice, qual è il titolo di quest'opera di Miro? Proprio è un po', non è come prima nella vecchia fattoria, il titolo era proprio La fattoria. In questo caso il titolo della canzone è Balla di Umberto Balsamo e in questo caso il titolo è, pensa a un quadro che rappresenta una persona, quindi ballerina. Eh sì, eh beh, è giusto, brava. Ciao Beatrice, grazie. Ciao. Daniele di Roma c'è tra pochissimo. Allora, questa volta non dovete indovinare il titolo di un'opera di Miro, però siccome Miro è molto conosciuto per i colori, fondamentalmente sono i colori, e dovete dirmi quali colori sono associati a questa canzone. Tell me that it's true. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how. I sogni sono la mia realtà, così cantava Richard Sanderson in Reality, in una delle colonne sonore più famose, credo che siano le canzoni per colonne sonore che siano mai state scritte. Il film non ve lo dico neanche, però ha a che fare con la risposta. Allora, c'è Daniele da Roma. Daniele, sì? Eccoti lì, ciao, buongiorno, buona domenica. Allora, tu ricordi il film che aveva come colonna sonora questa canzone? Ma come no? Ma no, cioè non posso dirtelo perché è lì la chiave di tutto. Ma è un film famosissimo. Ma veramente, guarda, questa canzone sta. Quanti anni hai, Daniele? Beh, una cinquantina. No, ora devi sapere per forza, perché eri adolescente anche tu in quell'epoca, di quel film. Insomma, un pochino più che adolescente, però. Era un film famosissimo con Sophie Marceau. E la colonna sonora era questa canzone, Dreams, ormai riparlava di una storia d'amore. Sì, no, la canzone la conosco, è famosa. Ma quel film, dai, il tempo è scaduto. Il tempo delle mele. Eccolo là, ecco. Allora, devo capire quali sono i tre colori legati a, non al tempo delle mele, ma alle... Alle mele. Eccole lì. Allora. Quindi il verde. Verde. Il rosso. Sì, ne manca uno solo. Rosso e giallo. Sì. Visto che ce l'abbiamo fatta, Daniele. Quindi figurati. Ma te lo ricordi? Hai visto il tempo delle mele o non l'hai visto? No, no. Ah, proprio. Ma fa niente. Non è che sia proprio uno dei film fondamentali. Però aveva avuto molto successo quando uscì. Non mi ricordo neanche più l'anno, non volevo neanche sapere. Film caldo. Assolutamente, in qualche modo lo è, certo. Grazie Daniele da Roma, grazie, buona domenica per te, anche per te, catalogo della mostra di Miro, Poesia e Luce, biglietto d'ingresso e appunto il catalogo della mostra a Genova, Palazzo Ducale, fino al 7 aprile. È tutto per quanto riguarda Riposo del Guerriero, torniamo con Miro, abbiamo ancora dei cataloghi da farvi avere, delle canzoni da ascoltare soprattutto. Grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, alla assistenza di Nadia Zammitti, Paolo Corleoni in regia. Grazie a voi e vi auguro un'ottima settimana. Ci sentiamo domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini.